questo cortometraggio racconta dell'arrivo di un clochard, diciamo, di fronte a un condominio. Viene questo clochard accolto dal condominio in maniera quasi magica, nel senso viene adorato, viene portato dentro, gli viene dato da mangiare, gli viene costruita una tenda perché piove, e nel condominio tutti subiscono, tra virgolette, questa magia, nel senso che lo adorano, lo coccolano, eccetera, tranne uno, che è poi il protagonista del corto, che durante tutto il corto lui svilupperà una sorta di, io la chiamo, incomprensione, nel senso che non capisce, non comprende che cosa sta succedendo, ed è questo che il motore della storia, cioè la sua incomprensione, il non capire il motivo per cui tutti fanno questo, che lo porterà poi dopo a scontrarsi con questo clochard. Questa è in breve la storia. Tu parli di una critica non all'indifferenza quanto alla non comprensione, cioè secondo te è la non comprensione di determinati fenomeni che porta ad averne paura, comunque a distaccarsene? Secondo me è un fatto da non sottovalutare, nel senso c'è anche sicuramente l'indifferenza, però la non comprensione a volte, secondo me, gioca un ruolo per me importante, però sì. Io la vivo così. Tra l'altro, dopo poco che noi abbiamo girato questo corto, ho scoperto che a Bologna c'è stato un quartiere, forse non proprio un condominio, che però ha adottato un senza tetto. Non mi ricordo bene dove, però mi ricordo questo fatto. Per me la non comprensione molto spesso gioca un ruolo chiave, perché non capendo non riesci a, tra virgolette, empatizzare, quindi ti trovi in una situazione di difficoltà. Certo. Posso chiederti perché questa idea? Sai, non ho una risposta, non ho una risposta. Ci è venuto in mente, a me, la sceneggiatrice Marta Tedeschi, non c'è stato un fatto di tra virgolette di cronaca che ci ha fatto dire allora facciamolo. È proprio stato così. Ci siamo immaginati che potesse arrivare effettivamente questo senza tetto dal nulla, e che trovasse un buon posto anche al di fuori, all'inizio del condominio, trovasse bene, e questo già genera una sorta di difficoltà, e questo a prescindere, anche se tu sei la persona più, diciamo, accogliente del mondo, avere una persona senza tetto fuori da casa tua tutti i giorni ti crea, tra virgolette, difficoltà, nel senso devi relazionarti con questa cosa e devi in un certo senso trovare, tra virgolette, una soluzione, comunque devi fare qualcosa, tra virgolette, e questo è stato, diciamo, il motore dell'inizio della scrittura della storia. Chiaro. Una curiosità: come mai il titolo in francese si è stato voluto? Guarda, sì, no, il titolo in francese perché, secondo il senza tetto, comunque durante il cortometraggio praticamente non parla, e noi nella nostra testa abbiamo pensato lui fosse francese. Ok. E quindi mon clochard. Il tuo cortometraggio partecipa alla 13ª edizione del Terra di Tutti Film Festival. Quando verrà proiettato? Nel periodo del festival, che va dal 10 al 13.